L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Buon pomeriggio a tutti da Achille Corea. Oggi è il 20 agosto della puntata numero 16 dell'Italia vista dallo spazio, il programma che ogni giorno viene qui su Radio 24 a cercare qualcosa da salvare dell'Italia, o meglio 24 simboli che potremmo lanciare nello spazio per spiegare agli alieni o a chi per loro, perché magari c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, che cos'è l'Italia in questo momento, che cosa è stata, ma soprattutto che cosa vorrebbe essere. Di che cosa parliamo oggi? Beh, oggi scegliamo una cosa che può sembrare minima, ma non lo è. Diceva il filosofo Feuerbach, partiamo con una citazione altissima oggi, che l'uomo è ciò che mangia. Beh, io penso anche che l'uomo sia ciò che beve, e questo è evidente non solo dal punto di vista fisico, quanto dal punto di vista simbolico. Qualche anno fa un mio amico, a cui avevano dato una dieta proprio ferrea, mi disse: non avevo mai capito quanto la mia vita sociale fosse basata sul caffè e sugli alcolici. Infatti la nostra vita è questo, un susseguirsi di ti offro un caffè, offrimi un caffè, prendiamoci una birra, beviamoci un bicchiere di vino, facciamoci un ammazza caffè prima di andare via. È tutto un'importantissima scelta di cosa bere. Pensate a quelli che a una cena dicono: no, scusate, io non brindo, sono astemio. Come li guardano tutti come dei poverini. Pensate a quelli che al bar, quando tutti gli altri dicono caffè, caffè, caffè, fanno, che ne so, una spremuta e subito si devono giustificare: no, ne ho presi già 8 da stamattina, sai, non vorrei esagerare. Pensate al fatto che riusciamo a volte a creare dibattito anche sul fatto se l'acqua la vogliamo liscia, effervescente o leggermente, come si usa dire adesso. Allora io vorrei sapere da voi qual è secondo voi la bevanda che maggiormente rappresenta l'Italia, la bevanda che maggiormente potrebbe rappresentare noi italiani, e vi chiedo di dircelo chiamandoci da adesso all'800 24 00 24. Posto numero 15, in attesa di assegnazione. Ma prima di andare avanti, voi sapete come funziona, noi dobbiamo dirvi che cosa ha guadagnato il posto sulla nostra navicella spaziale virtuale nella puntata precedente. Venerdì, era venerdì 17, noi abbiamo parlato di superstizione, molti di voi ci hanno inviato i propri, almeno virtualmente, i loro amuleti preferiti, i loro riti, alcuni ci hanno detto che non ci credono, più di una persona ci ha citato una frase che è attribuita a Edoardo De Filippo, che dice: essere superstiziosi e da ignoranti, ma non esserlo porta male. E allora noi facciamo così: nella nostra navicella mettiamo una di quelle targhette di ceramica con scritto proprio questa frase qua: essere superstiziosi e da ignoranti, ma non esserlo porta male. Posto numero 15, assegnato. E allora 800 24 00 24 per telefonarci e per parlare in diretta con noi, 349 238 6666 è il numero degli sms. Su Facebook abbiamo una pagina che è già stata, diciamo, da qualche ora diciamo informata rispetto all'argomento di oggi, e sono già arrivate alcune segnalazioni, alcuni voti. Su Twitter ci trovate sia con l'hashtag cancelletto dallo spazio, sia il mio account @AchilleCorea. E quella che avete sentito del sottofondo è la sigla di una delle trasmissioni comiche, delle sitcom di maggior successo degli ultimi anni, ovvero Camera Caffè. E al telefono con noi c'è uno degli attori di Camera Caffè, interpreta la parte di Olmo, ma anche uno degli autori, è Carlo Gabardini, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci Carlo. Eccoci. O Olmo, per far capire immediatamente chi sei, perché purtroppo l'attore è così, insomma, il suo nome non spesso arriva dopo il personaggio, soprattutto nelle serie TV. L'attore televisivo, diciamo, perché non è che spesse volte, diciamo, Al Pacino venga chiamato Riccardo III per strada, ma comunque. L'attore televisivo, sì, è vero. Allora, io ti ho chiamato perché, se vogliamo dire che il caffè è un simbolo della vita degli italiani, è una presenza ricorrente, niente. Forse potremmo partire dal fatto che c'è una sitcom che ha fatto qualcosa come forse 1500 puntate di più. 1970, se non ricordo male. Tutte davanti alla macchinetta del caffè, lo diciamo per quelli che non lo sapessero, di una azienda immaginaria con vicende di ogni tipo che succedono davanti a questa macchinetta. Diciamo che esatto. È un format francese ampiamente però riadattato e di successo in Italia, e la cosa che mi colpisce è che risulta assolutamente credibile in Italia che tutte quelle cose succedano in pausa caffè. Assolutamente sì. Beh, questo in realtà penso che risulti credibile un po' in tutto il mondo. È ovvio che in Italia il caffè ha un suo valore maggiore. Diciamo che il caffè in Italia è molto legato alla pausa. Infatti gli stranieri quando vengono in Italia si stupiscono sempre e dicono: ma quanti caffè bevete? Perché in Italia in realtà uno dice: andiamo a berci un caffè, che è un modo, diciamo, per pigliarsi quei 26 minuti di pausa. Quindi se uno ne prende uno all'ora, diciamo, lavora i restanti 34. Sì, questo volevo, una cosa mi fa sempre pensare che in realtà noi italiani, che appunto siamo visti come, diciamo, flemmatici e molto lenti, poi abbiamo come nostra colazione il caffè, che è una roba che volendo in 3 minuti butti giù, mentre gli stranieri, i nordici iperattivi, poi hanno delle colazioni lunghissime per cui bisogna sedersi e consumare lentamente. Però loro ne fanno una la mattina molto presto, noi di colazione ne facciamo 11, quindi perlomeno cerchiamo di farne una breve, perché sennò non sarebbe credibile. Soprattutto 11 non ci starebbero, 11 da un'ora in una mattina. Senti, quindi direi che è un po' per quello. Qual è il tuo rapporto con il caffè, al di là del fatto che hai dovuto scrivere centinaia di vicende ambientate davanti a quella macchinetta? Ma io adoro il caffè proprio tantissimo, ne bevo tantissimo, anche perché mi giustifica un sacco di sigarette, perché fumo pure tantissimo, e quindi diciamo a volte come il cibo, che uno dice vabbè, dopo mangiato la sigaretta non si può negare a nessuno, quindi ogni tanto mangio semplicemente delle olive per poter fumare una sigaretta, il caffè è un po' la stessa cosa, che uno dice vabbè, bevo un caffè, dopo il caffè la sigaretta, diciamo, anche mia mamma non potrebbe dire assolutamente nulla, quindi ho un ottimo rapporto. Poi invece, se posso dire una cosa meno, diciamo, nobile, sono anche un fortissimo bevitore di caffè solubile. Qui scatterà realtà la polemica, perché i puristi il caffè solubile. No, ma fanno tutti ragionissimo. Non sostengo che sia più buono, sostengo che sia molto più comodo, semplicemente. E se vogliamo parlare possa, della, diciamo, sì, fare una sorta di fanghiglia, perché uno con il caffè solubile può mettere, non so, 14 cucchiaini e 2 gocce d'acqua e viene un caffè importante, ecco. Ma se vogliamo parlare di simbologia, quello è proprio un'altra cosa, è proprio il caffè degli americani, quelli che tengono nelle serie TV che guardiamo questa tazza davanti per ore e ore, che ci fanno tutti dei dibattiti e delle discussioni. Sì, in realtà gli americani non bevono neanche il caffè, hanno il caffè più tipo la tedesca, che sono questi caffè filtrati, diciamo, il caffè lungo. Non è che ci buttano dentro la polverina è proprio è un po' l'ultimo stadio, un po' come l'eroina, diciamo, del caffè, ecco. Infatti non è neanche male, diciamo, in vena, però forse questo non si può dire in radio. No, beh, diciamo, è un'immagine abbastanza forte. Senti Carlo, io ti vedo, tu sei iperattivo anche su Twitter, molto, diciamo, hai un account molto seguito e che usi molto. Sono in competizione le pause Twitter e le pause caffè, o le riesci a sposare bene? No, le riesco direi a sposare molto bene. E poi finalmente su Twitter sono con il mio nome e cognome, quindi con @CarloGabardini e non con Olmo, e già questo mi rincuora moltissimo. Non hai bisogno. E poi in realtà fare le pause caffè, se posso dire una roba su Camera Caffè, di quello che dicevi prima tu, che mi sembra molto legato al caffè, è il fatto che davanti alla macchinetta del caffè alla fine ci si dice molte più cose, è un po' come se in ufficio si fosse in scena nel momento che uno è in ufficio, in una riunione, davanti al proprio capo, e poi invece la macchinetta del caffè è una sorta, come di essere in quinta, diciamo, non essere più in scena, dove ci si dice la verità, cioè come sta andando, che cosa uno pensa veramente, quindi... E direi che la macchina del caffè simboleggia bene la quinta teatrale. E questo potrebbe essere un motivo per, diciamo, mandare nello spazio una tazzina di caffè. Poi vabbè, lì si aprirà tutto il dibattito su come bisogna farlo questo caffè, però magari quello facciamo una puntata a parte. Anche perché si rischia di essere obbligati a portare su, diciamo, la polverina solubile, perché è molto più semplice. Invece noi vogliamo un bel caffè della tazzina, vero. Giusto? Sì, quello di cui ci lamentiamo appena andiamo all'estero. Grazie Carlo di essere stato con noi e di aver, diciamo, rappresentato il partito del caffè. A presto. Ma di difendo anche il partito degli alcolici, posso dirlo? Va bene, doppio voto per Gabardini, partito del caffè degli alcolici. A questo punto, guarda, te la chiudo così, caffè corretto e siamo a posto. Ammazza caffè. Vai. Io chiedo al mio partner qualcosa di diverso. Una vita con... Desiderate qualche cosa? Un caffè, con un po' di humor. Qualcosa di diverso, di speciale, di straordinario, di fantastico, di sorprendente. Ecco, su quanti modi si può fare il caffè, c'era questa gag vecchia ma sempre bella di Lino Banfi che in Viene Avanti Cretino provava a ordinare un caffè con humor corretto ma con utopia a un certo punto. Beh, sì, ne dovremmo parlare di come lo volete questo caffè, ma non possiamo parlare solo di caffè perché, come diceva Carlo Gabardini, si apre il mondo degli alcolici e io, prima di citare molti suggerimenti che stanno arrivando su Twitter, su Facebook e anche via SMS, vorrei introdurre il secondo ospite, che è un musicista, cantante, chitarrista molto noto, ha fatto parte del gruppo dei Timoria, è con noi Omar Pedrini, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno, mi fa piacere seguire Carlo, che saluto in questa querella. Sì, piacevole. Sì. Insomma, querella amichevole, perché penso che poi comunque tu apprezzerai il caffè, lui apprezzerà. È difficile su queste cose poi essere fondamentalisti. È vero, è vero. Allora, Omar, tu, diciamo, oltre alla musica, hai la passione per il vino, è una cosa che anche professionalmente hai seguito e segui. Sì, è una cosa, diciamo, che da passione è diventata un lavoro, perché comunque da qualche anno lavoro per il mondo del vino. Ho avuto l'onore di stare a fianco di un grande, di un gigante come Gino Veronelli, che mi ha un po', ecco, suggestionato e acculturato con tutta la sua preparazione, ma soprattutto col suo amore per il vino. Quindi, ecco, io faccio parte del partito di questo nobile succo, che parla della terra come nient'altro, ecco, perché per rappresentare un paese bello e vario e così fortemente diverso di angolo in angolo come la nostra Italia, credo che il vino, che è il modo che la terra ha di parlare all'uomo, sia appunto la bevanda nobile prescelta per questo compito. Omar, senti, tu hai anche condotto un programma che si chiamava Gambe Rock, che era proprio un viaggio in Italia alla ricerca, diciamo, di vini e tesori dell'enogastronomia, quindi ti sei fatto, suppongo, anche un'idea di quali sono, diciamo, le eccellenze e i tesori. Qual è la cosa che, diciamo, salveresti, potendo citarne una sola? Qual è il nostro tesoro principale? Ma il nostro tesoro è veramente, come dicevo poc'anzi, la diversità, cioè il fatto di avere in ogni campanile un giacimento, no? Quando scrissi con Rossana De Michele questo programma che mescolava l'arte e i prodotti enogastronomici, quelli che ormai giustamente, come abbiamo imparato dagli amici di Slow Food anni fa, chiamiamo giacimenti, proprio perché sono delle piccole miniere che abbiamo in tutta Italia. Salvarne uno in particolare, lì si va veramente a gusti. Abbiamo terre di bianchi, terre di bollicine, abbiamo terre di grandi rossi. Io vengo dalla provincia Granda oggi, proprio sono stato nel Cuneese, ed è curioso e suggestivo vedere come in ogni angolo ci sia un vino diverso, ci sia un paese vocato per il peperone piuttosto che per un ortaggio, piuttosto che per un tipo di uva. E quando feci Gambe Rock, visto che hai citato questo programma molto divertente e che ha avuto un bel seguito sul Gambero Rosso, la terra, mi sono inginocchiato a baciarla proprio nelle terre di vicino a Barolo, alla Morra. Omar, senti, facciamo così, siccome poi tanto forse i nostri... l'unico momento, sì, in cui, come Cristoforo Colombo, ho baciato la, sì, terra. Allora, Omar, facciamo così, visto che tanto i nostri ascoltatori poi avranno modo di dire la loro, io ti chiedo comunque di sceglierne uno e darci una motivazione, ti do anche qualche secondo in più perché c'è la viabilità e torniamo tra pochissimo. L'Italia vista dallo spazio. Vuoi bere qualcosa, Pedro? Bevi qualcosa! i ricordi del trio che Marchesini, Lopez, Solenghi e con la gag di Pedro, bevi qualcosa, vuoi bere qualcosa? Beh, noi siamo così, invitiamo sempre a bere qualcuno e se non accetta è un bel problema proprio sociale, ci teniamo. Questa è l'Italia vista dallo spazio, sono Achille Corea, al telefono con noi c'è ancora Omar Pedrini. Che cosa offriamo allora? Ci dicevi del Barolo. Sì, beh, io oggi offrirei un Barolo a tutti, questa sera magari non oggi che il caldo non ce lo permette, per brindare comunque a tutti coloro che amano il vino, a questa bella terra che ci parla attraverso esso, e ai vini di tutta Italia, da uno dei re che possiamo portare in tavola, che è proprio il vino per eccellenza, questo figlio nipote del Nebbiolo. Va bene Omar, io ti ringrazio e ti faccio tanti in bocca al lupo per tutte le tue attività, tra cui anche quelle ovviamente enogastronomiche. Grazie per essere stato con noi all'Italia vista dallo spazio. Ciao, complimenti a voi e un abbraccio agli ascoltatori. Vorrei sentire appunto qualche ascoltatore che ha chiamato all'800240024. Erasmo da Trento, benvenuto. Buona giornata. Allora Erasmo, qual è la tua scelta? Cosa potrebbe rappresentarci come bevanda? Cappuccino. Ah, ecco, è un'altra scelta tipicamente italiana, perché poi all'estero troviamo difficoltà a farci fare un cappuccino come si deve, o almeno ci piace pensare che poi all'estero non lo sappiano fare come noi. Per te cosa rappresenta il cappuccino? Perché l'hai scelto? Perché rappresenta l'italianità, come la pizza, come il caffè, come il vino buono. All'estero ce lo invidiano, ci provano a copiarlo e non ci riescono mai. Quando vengono in Italia si sfogano con un cappuccino tutte le ore. Ma ci sono davvero, una cosa che mi chiedo, ci sono davvero questi stranieri che si bevono il cappuccino con la pizza? Perché poi non li vedo mai. Assolutamente sì. Va bene, allora chiedo agli ascoltatori anche di segnarmi queste cose, come chiedo agli ascoltatori anche di darmi dei voti contro se vogliono. All'Italia vista dallo spazio si può anche fare questo, potete dirmi no, a me sta antipatico a questa bevanda qua, non voglio che rappresenti l'Italia. E poi ne discutiamo. Linda da Bologna, benvenuta. Salve. Linda, io cosa scegliamo? Io ho scelto il caffè praticamente, perché lo prendo in tutte le ore della giornata. Diciamo, essendo una napoletana, il vero caffè insomma si gusta a Napoli. Qui però poi ci sono ovviamente tutti i vari localismi italiani, però è ovvio che il caffè fa molto Napoli, sì. Su quello non c'è dubbio. Io preferisco quello proprio, l'espresso, in modo che dà il gusto forte, rappresenta la genuinità, la fortezza. In sintesi, in una frase, cosa fa di un caffè un buon caffè? Un buon caffè? Sì. È praticamente la genuinità. Ah, va bene. Il gusto. Va bene, grazie a Linda da Bologna. Vi invito a chiamarci ancora all'800240024. Cito qualche voto da Facebook e da Twitter. Il primo che è arrivato quando abbiamo lanciato l'argomento è di Andrea per la spuma. Ha detto anche decisamente il caffè per Natale, che ha detto pure in carcere sanno fa, con citazione di De André. E Alberto mi sfida sul mio campo, mi dice gassosa al caffè, se riuscite a trovarla, ma in Calabria. Noi siamo maestri della gassosa al caffè. A proposito di analcolici, su Twitter cresce un partito che non immaginavo, il partito del chinotto. Quante ne devi vedere, va? Idrocopina vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. E non so se possiamo portare nello spazio come simbolo delle bevande italiane l'idrofobina vegetale, che è una cosa inventata da Sergio Caputo, perché quando già il disco in cui c'era questa canzone, che è Un sabato italiano, era già stato inciso e la canzone diceva citrosodina granulare, lo chiamarono e gli dissero che non lo poteva dire perché era il nome di un farmaco, quindi doveva toglierlo, e lui al volo rincise la canzone inventandosi questa idrofobina vegetale. Un disco che io mi ricordo avevo, e sul retro di questo disco ogni canzone era abbinata a un cocktail, era una cosa che mi piaceva molto, e per questo motivo mi è piaciuta molto anche l'idea di Carolina Cutolo di scrivere nel suo romanzo Romanticidio anche una serie di abbinamenti tra i vari personaggi e i cocktail che meglio esprimono la loro personalità. Carolina, benvenuta. Grazie, ciao Achille, buon pomeriggio. Allora Carolina, tu sei scrittrice appunto in questo tuo ultimo libro c'è anche, che ricordiamo è Romanticidio edito da Fandango, c'è anche questo abbinamento tra personaggi e cocktail, che non è casuale perché tu sei anche una barista. Esatto, una barman, ho studiato ma anche per questo mi sono proprio innamorata della professione. All'inizio era solo un modo per in qualche modo migliorare la condizione di cameriera, invece mi sono ritrovata a innamorarmi veramente dell'arte della miscelazione, quindi mi sono fatta un bel corso all'Ibes e poi nel momento in cui scrivevo questo libro, essendo la protagonista una barman, mi sono inventata questo espediente per presentare i personaggi, associandoli ciascuno a un cocktail particolare e spiegando il perché. C'è davvero un giudizio come quello che ho letto nel libro? C'è una voglia del barman di capire chi ha di fronte in base a che cosa ordina? Beh sì, io credo che faccia parte proprio delle deformazioni professionali, ecco, della categoria, perché da una parte il barman è proprio un po' un sociologo spontaneo, nel senso che non si può fare questo lavoro senza essere innamorati non solo dei cocktail e dell'arte della miscelazione, ma anche dell'avventore, dell'imprevisto, della persona qualsiasi che ti arriverà al bancone e i cui gusti magari devi anche divertirti a indovinare offrendogli una cosa magari inventata sul momento, quindi insomma il barman, ecco, è un personaggio un po' così, un osservatore dall'alto della sua pedana, sì, che associa ovviamente, cioè si fa l'idea dei suoi clienti a seconda di quello che ordinano. La domanda a questo punto è: ci si prende di solito? Ma guarda, sì, perché secondo me alla fine, anche allargando il discorso sul gusto, su quello che ci piace mangiare, su quello che scegliamo, in fondo è anche un po' un piccolo specchio di chi siamo, no? Quindi se ci piacciono cose molto dolci e abbiamo bisogno di appunto coloriture per poter mandare giù qualcosa di molto forte, siamo un certo tipo di persona. Se invece ci piace il whisky liscio, secco, da sorseggiare sulle labbra, abbiamo un altro tipo di approccio alla realtà, alla vita, io credo. Senti, qual è il cocktail che hai scelto per noi? Intanto è un cocktail italiano anche di nascita? Certo, sì, il Negroni. Non è stato facile in realtà sceglierlo, perché anche se insomma più o meno i cocktail italiani famosi sono tutti appartenenti alla stessa famiglia, cioè quella del vermouth rosso tipicamente torinese e il Campari invece di nascita milanese, per cui anche l'americano, per esempio, infatti il Negroni nasce come variante dell'americano. Però chi il Negroni l'ha inventato, lo trovo il Negroni? Scusami? Chi ha inventato il Negroni? L'ha inventato questo conte Negroni, da cui ha preso il nome, che era un conte fiorentino molto raffinato che frequentava questo storico bar di Firenze e che beveva americano, che è, nonostante il nome, un cocktail italiano, però molto bevuto in Italia, è nato in Italia per omaggiare l'arte della miscelazione americana. Però il conte, essendo tornato da alcuni viaggi in Inghilterra, a Londra, avendo bevuto cose un po' più forti, è tornato e insomma questo americano gli sembrava un po' troppo annacquato, perché di fatto sì, Campari e vermouth rosso, però con allungato con la soda col mare, si dice in gergo tecnico, e quindi chiese al suo barman di sostituire la soda con il gin, che infatti insomma è chiaramente di appartenenza più British, e così è nato questo. Senti, Carolina, questo cocktail. Che idea ti fai di chi ordina un Negroni? Cosa pensi? Allora, intanto penso che sia una persona che ama anche i gusti un po' particolari, e quindi non solo un cocktail semplice con base e magari come i long drink, no? Che sono semplicissimi, una base di vodka, di rum, di gin, eccetera, e un analcolico ad alleggerirlo. Chi ama il Negroni innanzitutto ama l'armonia tra i contrasti, quindi anche nella vita è qualcuno che, insomma, a cui piacciono le cose anche molto diverse e l'armonia insospettabile tra cose molto diverse, perché il Campari è notoriamente molto amaro, mentre il vermouth è una sorta di vino aromatizzato e dolce, quindi questi due elementi insieme, però anche il gin, insomma, che gli dà un certo corpo alcolico, e quindi insomma persone temerarie, diciamo, ecco, persone temerarie che amano usare. Sto pensando, non ordinerò più una cosa con leggerezza al bar, perché so che appena io dico una parola. Grazie. Ma tanto che nessun barman professionista esprimerà mai un giudizio sul lavoro, ma so che lo pensa, a me frega questo. Grazie a Carolina Cutolo per essere stata grazie con noi. Voi. Ricordiamo il suo romanzo, si chiama Romanticidio. Io vedo che l'America si scola i favolosi cocktail che io faccio. L'America fa scorrere in gola torrenti di liquori e di ghiaccio. Eccolo, il film che ha rovinato una generazione. Cocktail con Tom Cruise, bello e barista acrobatico. Anzi, scusate, non barista, barman, è giusto, bartender. Sono due cose diverse ed è la seconda volta che lo sbaglio. Mi aspettavo più voti per Gli Amari, che sono un'ossessione italiana. Gli Ammazza Caffè, che ognuno c'ha il suo, che se lo fanno in casa. Mentre c'è niente, il partito del Chinotto prende quota, però ci sono ovviamente moltissimi voti per il vino, eccetera. Vorrei sentire Wilson da Bari. Pronto? Pronto, buon pomeriggio a tutti. Wilson, che cosa scegli per noi? Inizialmente ero combattuto, però poi ho sentito il vino. Effettivamente il vino fa riconoscere la terra dove vivi. È una questione di radici. Con che cosa eri combattuto? Con il caffè, perché sono un bevitore di caffè. Beh, questo è uno scontro tra titani. In tutte le salse. E va bene, che vino ci dici? Scegli un vino? Primitivo. Primitivo, va bene, è una questione, insomma, Wilson da Bari, è una questione effettivamente di geosentimentalismo, se mi passate. Dario da Sondrio, pronto? Pronto. Che cosa scegliamo? Siamo quasi in chiusura, che cosa scegliamo? Sì, avevo detto l'acqua fatta con le bustine. Ah, sì, l'idroletina. Perché? Del esatto. Cavalier, non mi ricordo come si chiamasse, però sì. Ma la fanno ancora? La più famosa. Sì, sì, sì. La fanno... Perché è una cosa che ormai è dimenticata e mi sembra bello, visto l'importanza che aveva in quel contesto, in quel periodo, portarla così come simbolo di un periodo in cui la vita era anche forse migliore di adesso. Un tocco di nostalgia c'è sempre all'Italia vista dallo spazio. Allora, voi continuate a votare, i voti che le telefonate non mandate in onda, i voti su Facebook, i voti su Twitter, noi li teniamo assolutamente da parte, li contiamo, anche quelli che arrivano durante la replica, e domani vi diremo quale bevanda portiamo nello spazio. E ringrazio Valerio Rocchetti per la parte tecnica, Antonella Migliaccio per la redazione. Grazie a tutti da Achille Corea, a domani con l'Italia vista dallo spazio. Posto numero 16, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.